총은 Sole, sole malato, ha bisogno di un altro in saluto. Stuccello mio, che grigia diventate, da quante tu te ne si uta. Stai là con Betty, tutte fernute. Io penso a te, che mi hai imbraccianate. Amore mio, che da già lì. Thank you.